Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno! Siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 438, nella quale parleremo di macabre, intimidazioni, xenofobe, cinici, campionati e peccati di gola. Speriamo di avervi incuriositi. Dedichiamo questa puntata a un maiale senza nome che è stato probabilmente allevato, poi ucciso e decapitato, e la cui testa il 15 giugno scorso, alla fine della festa del Ramadan, è stata posizionata da ignoti sulla recinzione di un alloggio che ospitava 8 richiedenti asilo a Sacile, in provincia di Pordenone. Sacile, lo ricordiamo, è la città che ospita la Sagra degli Osei. Questi richiedenti asilo si stavano per l'appunto accingendo a partecipare alla festa per la fine del Ramadan. Il gesto è in sé rivoltante, vigliacco e ignobile, e strumentalizza il corpo di un animale che paga già un tributo di sangue altissimo alla società umana, con 10 milioni di individui allevati per essere macellati ogni anno solo in Italia. Il maiale nella Bibbia, per la precisione nel Levitico e nel Deuteronomio, viene proibito in quanto animale impuro. Negli ebrei, nei musulmani, ovvero le persone che seguono la religione ebraica e islamica in modo ortodosso, dovrebbero mangiare o avere contatti con questo animale. Pertanto, sulla base di un pregiudizio negativo verso il maiale, per insultare qualcuno, gli si lancia addosso una testa mozzata, il frutto di una sevizia, di un'ingiustizia, che però, invece di generare rivolta verso chi compie questa sevizia, questa ingiustizia, genera ribrezzo verso l'animale stesso, un loop valoriale del pensiero a cui dovremmo fare caso. Sono state spesso rinvenute teste di maiale posizionate a spregio nel luogo in cui vengono costruite le moschee, in Italia, ma anche in altri paesi. Ricorderemo quella più discussa in Italia, a Colle Valdelsa, in provincia di Siena, che Oriana Fallaci, con grande disinvoltura, disse durante un'intervista di voler far saltare in aria con l'esplosivo. Il gesto di chi porta una testa mozzata per offendere nuoce a più vittime, in primis naturalmente il maiale, poi chi frequenta le moschee o in questo caso chi vive da richiedente asilo nel nostro paese. E non ci sfugge il legame tra le varie forme di oppressione, di prevaricazione, di dominio e di violenza, in questo caso maiali e immigrati, entrambi attaccati e insultati da un unico gesto specista e xenofobo insieme. Nella puntata della settimana scorsa, che trovate in podcast nel nostro blog www.restiamoanimali.it, ci eravamo concentrati sull'attualità, ma anche questa settimana ci sono notizie che ci sembrano importanti e che ci inducono a restare nella concretezza della cronaca. Su l'indro.it, un quotidiano di approfondimento indipendente, abbiamo intercettato un articolo firmato dalla psicoterapeuta Anna Maria Manzoni, intitolato «Dalla Russia, senza amore». Si parla di mondiali, naturalmente, e lo si fa guardando a questo evento dal punto di vista animale, per la precisione dal punto di vista dei randagi che abitano, anzi purtroppo che prima dei mondiali abitavano più o meno tranquillamente nelle città russe in cui si stanno svolgendo le partite di calcio di questo mondiale. Su quello che è costato ai cani randagi russi questo campionato calcistico ce lo racconterà il servizio della nostra Roberta Marino. Il fischio d'inizio è scattato il 14 giugno e fino a metà luglio gli sguardi dei tifosi saranno fissi sugli stadi delle 11 città russe che ospiteranno le 64 partite del campionato mondiale di calcio 2018. Un evento sportivo che ha portato la Russia al centro dello scenario internazionale e non solo per i calciatori e i turisti che l'affolleranno. Da diversi mesi infatti è nel mirino degli animalisti di tutto il mondo. L'accusa di aver fatto sparire dalle strade oltre 2 milioni di cani randagi per offrire un'immagine ripulita e impeccabile. E il termine sparire non è casuale. Secondo associazioni come Open Cage, le strade delle città coinvolte nella Coppa del Mondo, prima affollate da cani, ora sarebbero misteriosamente deserte. Nel paese il fenomeno del randagismo ha una storia secolare. Secondo gli ultimi dati sarebbero 4 milioni i randagi, di questi 2 milioni proprio nelle 11 sedi dei mondiali, da Mosca a San Pietroburgo. Cani perfettamente integrati che viaggiano persino sui mezzi pubblici o che si spostano in metropolitana in rigorosa fila indiana. Ma pur sempre troppi, secondo il governo russo, preoccupato di offrire un'immagine sgradevole alle telecamere internazionali. Per questo, come avrebbe rivelato Ekaterina Dmitrieva, direttrice della City Animal Protection Foundation, dal mese di gennaio sarebbero stati stanziati oltre 100 milioni di rubli per ripulire le strade con qualsiasi mezzo possibile. Dal cibo avvelenato a veri e propri squadroni della morte composti da aclappi a cani senza scrupoli o perfino tiratori scelti al soldo delle amministrazioni locali armati di cerbottane cariche di veleno, la ditilina, che soffoca l'animale lasciandolo agonizzante per strada. Esattamente come era accaduto per restare in zona a Sochi nel 2014 in occasione delle Olimpiadi o a Kiev in Ucraina per gli europei di calcio del 2012, solo per citare i casi più recenti. Il governo russo ha sempre respinto al mittente le accuse, parlando invece di cani sedati e poi portati nei rifugi temporanei per essere curati, sterilizzati e vaccinati. E a chiedere misure più umane per risolvere la questione del randagismo sarebbe stato anche un rappresentante del Comitato per la Protezione Ambientale della Camera, Vladimir Burmato. Le notizie sono quindi contrastanti e poco chiare, ma alcune testimonianze confermano i sospetti. È il caso dei volontari di un'organizzazione locale a difesa degli animali a Volgograd, che sono riusciti a salvare solo uno dei numerosi cani che accudivano nei cantieri o nelle fabbriche, o degli stessi calciatori che su Facebook hanno raccontato di essersi mossi in prima persona per adottare alcuni cani. Insomma, che siano finiti nei canili per essere soppressi oppure avvelenati per strada, di molti cani in effetti non ci sarebbe più l'ombra. Di fronte a questo scenario raccapricciante fa capolino una notizia a dir poco surreale. Mentre i cani scomparsi o uccisi finiscono nell'oblio, sale alla ribalta un gatto albino Achille, già privilegiato ospite dell'Ermitage di San Pietroburgo e diventato un fenomeno dei social network per una sua fantomatica capacità di indovinare i pronostici dei mondiali. Chissà se, però, tra una follia calcistica e un'altra, qualcuno si preoccuperà anche di chiedergli che fine hanno fatto i cani spariti dalle città. Sat right down and cried. Anche la rubrica di cucina, il pasto gentile di questa settimana sarà a tema. Stavolta il tosco vegan chef Gabriele Palloni dedicherà la ricetta della settimana allo sport più amato del mondo, che è, indovinate un po', il calcio, con ben 3 miliardi e mezzo di fan. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. It's true, I bring bad luck to the evil through the servant. I was born on Friday 13, in the darkest night I've ever seen. I got a bad, bad reputation, I have a nasty disposition. Quest'oggi parliamo di calcio. Troppo facile sarebbe darvi una ricetta ricca dell'omonimo minerale. Invece no. Restiamo proprio in tema sport, mondiali 2018, quello che l'Italia non c'è o come si fa ci toccherà guardare quell'altro, ecco quello. Bravi, mettiamo da parte lo spirito nazionalista che in questo periodo trabocca più del testosterone in una classe maschile di terza superiore e godetevi qualche bella partita di calcio internazionale in compagnia di amici. E per questa occasione una bella ricetta da gustare davanti alla TV. Riso freddo nel cuore. Gli ingredienti per 4 persone sono 4 pomodori cuore di bue, 200 g di riso originario, 2 carote, 2 zucchine, 2 patate, 200 g di fagioli cannellini cotti, un cucchiaino di capperi, mezzo cucchiaino di farina di semi di lino, un pizzico di cumino in polvere, olio extravergine di oliva, foglie di menta, basilico o origano fresche e sale. Lavate il riso e mettetelo in una pentola con 400 ml di acqua fredda e una presa di sale. Fate cuocere fino a quando si sarà asciugato. Quindi togliete dal fuoco e lasciate raffreddare. Nel frattempo pulite le verdure e tagliatele a piccoli quadretti e cuocetele al vapore, lasciandole abbastanza croccanti. A parte, con un frullatore ad immersione, realizzate una crema con i cannellini, sale, olio extravergine e il cumino. Tritate i capperi molto finemente. Fate sciogliere la farina di semi di lino con 2 cucchiai di acqua e aggiungete 2 cucchiai di olio extravergine e i capperi tritati. Mettete sul fuoco a fiamma bassa per 5 minuti, quindi lasciate raffreddare. Tagliate i pomodori cuore di bue a metà e svuotateli con l'aiuto di un cucchiaio. Mettete un pizzico di sale all'interno. Quando tutte le preparazioni si saranno raffreddate, condite il riso con la crema di cannellini, la salsa di capperi e semi di lino e delicatamente incorporate le verdure al vapore. Farcite i pomodori con questo composto e lasciateli raffreddare in frigorifero fino al momento di servire. Guarnite con foglie di menta fresca, basilico o origano. Oggi volevo parlare di canzoni dedicate ai cani e c'è l'imbarazzo della scelta. Avevo iniziato pensando al Labrador nero che ha ispirato le Zeppelin, oppure al cane che Neil Young si portava dietro durante le tournée, oppure al cagnolino di Pink Floyd che stava in giardino che ha ispirato un famoso brano, o a quello di Paul McCartney che è stato immortalato in una canzone dei Beatles. Però con questo caldo che avanza mi è venuto in mente i cani, che poi non sono di nessuno, ovvero i cani abbandonati. E quindi dedichiamo lo spazio musicale a un brano della banda Bardot che si chiama Pedro, che è proprio la storia di un cane che viene abbandonato. Purtroppo una realtà che tutti gli anni si presenta. Buon ascolto. Bastardo e si sente, il mio guinzaglio è un destino prepotente. Mi sa che è partito il padrone, con il caldo e il caldo e la confusione. Mi ha lasciato un cartello al collo, gentile a te. lasciato lasciandomi al sole. Rispondo al nome Pedro, non mordo e son pulito e son fare bello. Rispondo al nome Pedro, non mordo e son pulito e son fare bello. Legge, gente per bene, amerò il primo che viene. Esplode il fast food, il takeaway, il cibo pronto da scongelare, il cibo a domicilio, il junk food e probabilmente per compensare non si è mai visto parlare così tanto di cucina e di ricette anche in televisione e gli chef sono diventati dei veri e propri divi. Così dal 21 dicembre 2017 Repubblica ha deciso di dedicare un inserto settimanale al tema del cibo. L'inserto si chiama Food. Abbiamo intercettato un numero monografico di Food tutto dedicato alla carne. Su questo vi proponiamo un commento del nostro filosofo, pensatore di riferimento, il professor Luigi Lombardi Vallauri. Sono rimasto sconvolto dall'incontro casuale con R. Food, l'inserto 31 maggio 2018 su Repubblica delle Idee, dedicato al cibo. Incontro casuale, non leggo i giornali, un po' per igiene mentale, politica italiana, e un po' per pensare creativamente ai fatti miei. Ma l'occhio mi è caduto su quell'inserto e sono rimasto orrificato. Due intere pagine sulle ristomacellerie, con foto a colori di enormi pezzi di carne bovina e titoli tipo «Una costata stellare», «Roast beef con vista», «Quanto è nobile la trippa», «La salsiccia dell'Etna». Vincendo la ripugnanza naturale per il provare dolore, mi sono addentrato nei testi e ho trovato frasi, cito, come «Traffica mezzette, filetti e frattaglie da quattro generazioni», bovini che crescono in piccoli allevamenti attenti al benessere animale e alimentati come Dio comanda. Ogni giorno ci sono roast beef, arista, tacchino e poi trippa alla fiorentina, zuppa di trippa e lampredotto, spezzatino alla sangiovannese, polpettine di carne bianca o ancora carni frollate, a volte addirittura massaggiate, trasformare i tagli di carne in prelibatezze. Trippa ai ferri, trippa al pesto, trippa fritta, la classica trippa in umido alla genovese. Citazione ancora, non sono frattaglie, la trippa è il quinto quarto della mucca, spiega una sorridente Gabriella. Il bancone super assortito, la salsiccia preparata con cinque tipi di carne di maiale e tagliata al ceppo, il bollito, la lingua di bovino a lunga cottura, il taglio di bovino più pregiato e tenero, la punta d'anca. Il tutto gestito e presentato da uomini e donne di cui si dice ha affinato la propria vocazione. I mestoli degli avi, questo eterno ragazzo innamorato delle cose e della vita, tutti macellai. Per completezza devo dire che sullo stesso numero di Repubblica, ma non nell'inserto R Food, c'è un articolo su Brigitte Gauthier, l'attivista vegana francese, incubo degli allevatori, io direi anche degli allevatori. ma mi sono interrogato con dolore su come è possibile in una psiche umana questo abbinamento di crudeltà totale e di succulenta, compiaciuta gastronomia. Questa, per dirla con Hannah Arendt, banalità del male. Mi sono anche chiesto come un giornale del rango di Repubblica possa organizzare tranquillamente, senza scrupoli, queste offese pubbliche al sentimento per gli animali. Cito il titolo 9 bis del libro secondo del Codice Penale, dei delitti contro il sentimento per gli animali. Qui ovviamente non c'è delitto, ma certamente c'è offesa al sentimento per gli animali. Come ho detto parlando dell'esposizione pasquale a Napoli dei corpi degli agnelli e capretti macellati, interi o in quarti, e delle loro teste, il sentimento per gli animali è ormai, a livello europeo e italiano, un valore anche giuridicamente riconosciuto. Vorrei invitare Repubblica a esprimere in qualche modo il proprio rammarico per il dolore causato con questa offesa al sentimento per gli animali, diciamo pure, con questa pubblica offesa al dolore. Kicked him when he was bad. Old King sure meant a lot to me, but that hound dog is history. King went running after deer, wasn't scared of jumping off the truck in high gear. King went a sniffing and he would go. Bolzano, l'ex governatore altoatesino Luis Durnwalder e l'ex direttore dell'ufficio caccia e pesca della provincia autonoma di Bolzano, Heinrich Erhard, sono stati condannati dalla prima sezione della Corte dei Conti al pagamento di complessivi 1.136.250 euro, quindi 568.000 euro ciascuno, per aver autorizzato con una decina di decreti emessi tra il 2010 e il 2014 la caccia alla fauna protetta in Alto Adige. Le autorizzazioni riguardavano l'abbattimento del cormorano, del tasso, della marmotta, della faina e dello stambecco. La LAV ha definito storica la sentenza depositata, un risultato senza precedenti che riconosce per la prima volta in Italia il danno erariale causato da un'amministrazione pubblica che scriteriatamente e a più riprese ha proposto e approvato decreti di autorizzazione all'uccisione di animali di specie protette, incurante delle costanti bocciature della giustizia amministrativa. Questa notizia ci sembra particolarmente interessante alla luce delle più recenti disposizioni della provincia autonoma di Bolzano. A inizio giugno, infatti, la giunta provinciale di Bolzano ha proposto un piano di catture e abbattimenti mirati contro orsi e lupi, cioè i grandi carnivori, considerati una minaccia da parte degli allevatori. Una norma questa ritenuta illegittima dalla LAV, Lega Antivivisezione. Evidentemente c'è una tendenza da parte di questi amministratori a eccedere rispetto al perimetro delle deleghe a loro assegnate. Speriamo gli amministratori dell'Alto Adige, ma anche della provincia autonoma di Trento, dopo una multa tanto salata, ci pensino due volte prima di lanciarsi in nuove crociate contro altre specie animali. Thank you. vogliamo chiudere con una notizia che ci è sembrata carina. Una squadra di gattini usando armi come lanciacarote e pistole a pallini in tessuto salva dei piccoli elefanti nati in cattività, delle mucche imprigionate in allevamenti da latte e delle orche rese schiave nei parchi marini da robot aggressori che abusano di loro. Non è come pensate, non abbiamo mangiato troppo tofu. Stiamo parlando del nuovo gioco di azione e intrattenimento lanciato dalla Nintendo Switch. Si chiama Kitten Squad e sarà disponibile gratuitamente anche in Europa. Ne parliamo perché l'editore è l'associazione animalista PETA USA. Il gioco è ispirato dal risultato di investigazioni reali riguardanti lo sfruttamento e la crudeltà che viene praticata sugli animali, come quella subita dai piccoli elefanti sfruttati nel circo Ringling Bros, dalle mucche madri che vengono ripetutamente separate dai loro vitelli negli allevamenti per la produzione del latte e delle pecore che sono picchiate negli allevamenti per la produzione della lana, così come documentato negli impianti di tosatura in Australia, Stati Uniti e Argentina. Nel gioco Kitten Squad i giocatori liberano gli animali maltrattati, imparano come aiutare gli animali nel mondo reale, ad esempio diventano vegani e boicottano il circo. Dice questo Joel Bartlett, vicepresidente marketing di PETA USA. Siamo entusiasti che Kitten Squad sia ora disponibile come gioco gratuito sulla Nintendo Switch e siamo sicuri che raggiungerà un gran numero di giocatori che lotteranno contro le ingiustizie. Il gioco è stato scaricato più di un milione di volte sulla piattaforma PS4. PETA USA ha creato numerosi giochi online, tra cui le parodie dei Pokémon e Super Mario Bros. E iCalf, una nuova esperienza virtuale che mostra agli spettatori cosa vuol dire essere una mucca nata in un caseificio. Saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 439 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.